Il grande magazzino, aria condizionata, lenzuola mistolino, moda confezionata, sottane e camicette per mamme giovanette, panciere belle strette per giovani vecchiette. Vai, vai, vai nel grande magazzino, vai che troverai la pappa e il semolino. Vai, vai, vai nel grande magazzino, troverai commesse che vendono promesse. No smoking please nel fiume va, non potrai fumare eppure devi entrare. Posa la sigaretta, senti la canzonetta, la musica ti invita all'acquisto per la gita. Gita che non farai, però non si sa mai, meglio approfittare può andare per il mare. Vai, vai, vai, operazione bianco, attenzione prego che il bianco non sia stanco. La speciale offerta di questa settimana, da oggi è dedicata a mutande mistolana. Signora, a tutti i personi di Levesi potrà acquistare al valore delle offerte speciali tre bretelle pagandone solamente due. E approfitti! Ecco un buon brodino per vincere la fretta, deodorati al mattino con questa saponetta. Ultima novità per soli giorni tre, chi compra una sottana o una busta di caffè. Ultima novità per soli giorni tre, chi compra una sottana o una busta di caffè. Passate la lingua sui denti, sentirete che sgradevole patina. Con Dentolins ciò non accadrà. Ricordate, Dentolins, il dentifricio per chi fuma. Il dentifricio, il... Ultima novità per soli giorni tre, chi compra una sottana o una busta di caffè. Ultima novità per soli giorni tre, chi compra una sottana o una busta di caffè. Comunicazione interna 3 a 14, 3 a 14. Esposito, 5.000 cambio. Ultima novità per soli giorni tre, chi compra una sottana o una busta di caffè. Ultima novità per soli giorni tre, chi compra una sottana o una busta di caffè. Sono le ore 19:20, il magazzino chiude e ringrazia la spettabile clientela per la preferenza accordatagli. Buonasera e grazie.